Il CRB fu comprato l'anno scorso dal gruppo Maccaferri nell'ambito delle compensazioni riguardanti lo stadio, il restyling dello stadio, e di fatto è stato riaperto il centro sportivo. Di fatto è rimasto adesso l'unica area, diciamo, compensativa sul discorso dello stadio. Il progetto è farci un supermercato di 1500 metri quadri che andrebbe a occupare lo spazio dove attualmente c'è la piscina, e più i parcheggi, con un ingresso, io adesso non ho visto il progetto, immagino dall'asse attrezzato. A parte che questo sarebbe il quinto supermercato nel raggio di 1,5 km, ne sta aprendo proprio adesso un altro, quindi non se ne sente l'esigenza. È molto vicino all'incrocio di via Marzabotto, dove c'è tutto un gruppo di negozi, diciamo, di vicinato, quindi secondo noi li distruggerebbe. Siccome noi abbiamo sempre parlato dell'area come un tutt'unico, abbiamo deciso comunque di non mollare, quindi di fare un presidio per cercare di protestare e impedire che venga fatto il supermercato. Adesso il CRB è un'area che è diventata, non è più, diciamo, quella struttura privata per i dipendenti della Cassa di Risparmio, e adesso è gestita dalla Ponte Vecchio, quindi è completamente aperta ai cittadini, cioè come qualsiasi altra struttura sportiva bolognese gestita dalle polisportive. La piscina è una bella risorsa per la zona. Poi la battaglia sarà abbastanza difficile, perché in base alle nuove normative entro i 2500 metri quadri, diciamo, le proprietà possono praticamente fare quello che vogliono. Hanno recepito alcune cose che gli ha dato gli uffici tecnici del comune. Noi il progetto non l'abbiamo visto, però è un'assurdità, cioè è anche un modello di business sbagliato. Non si fa un ennesimo supermercato a 500 metri da una Coop, da un Lidl, è a un chilometro, da un SLU, cioè proprio uno sbaglio. I costruttori alla fine ci guadagnano costruendo, poi a chi lo vendono sono fatti loro. C'è il rischio che in 2 o 3 anni fallisce e poi rimane l'ennesimo rudere. E quindi insomma è anche, come dire, un'iniziativa che non tiene conto di quello che poi è l'impatto sul mondo economico, no? Certo, soprattutto di quartiere, di rione, diciamo. Non a caso la facciamo di giovedì, perché abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con i commercianti della zona. Giovedì di solito sono chiusi, per cui molti di loro verranno con noi. Ecco, ma alla luce delle novità che riguardano i prati di Caprara, il restyling dello stadio, l'impegno diretto del comune con 30 milioni per il restyling del Dall'Ara, nonostante questo rimane quell'area compensativa? Sì, perché lì è un accordo fra la proprietà fra il Bologna e il gruppo Maccaferri. Chiaro che la parte dei parcheggi durante le partite verrà utilizzata, la parte dei parcheggi del supermercato, quindi ha anche questa funzione, adesso non so se gratuitamente o a pagamento. Poi dall'altro punto di vista noi siamo contenti che si sia staccata la questione dei prati di Caprara dal restare nello stadio, perlomeno si può parlare di piano regolatore senza avere questi ricatti sulla testa. Allora, noi ci vediamo a via Marzabotto, praticamente all'incrocio con l'asse attrezzato, davanti all'ingresso del CRB. Faremo un presidio, sitting. L'ultima volta che l'abbiamo fatto, più di un anno fa, eravamo diverse centinaia. Speriamo di essere numerosi anche questa volta, che sarà dalle 6 alle 7:30, insomma.